Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Se avete mai visto una scarpa perduta, immagino sappiate di che cosa sto parlando. È così evidente, guardando una scarpa perduta, che quella non è solo una scarpa, ma è la storia di un uomo che ha perso quella scarpa. A differenza di come facevamo tutte le estati, un anno, quando io credo avevo 8-9 anni, i miei genitori portarono me e mia sorella, e loro ovviamente, tutta la famiglia, in vacanza in un posto dove c'erano solo stranieri. Era una specie di campeggio con dei bungalow che erano frequentati moltissimo da olandesi, tedeschi e mi pare inglesi all'epoca. Noi non conoscevamo una parola d'inglese, parlavamo solo italiano, e lì sperimentammo sia io sia mia sorella per la primissima volta la sensazione di essere degli estranei, di essere degli stranieri, di essere quasi dei clandestini, cioè di essere lì e di non riuscire primo a scambiare una parola con nessuno e secondo di non riuscire a creare un contatto con nessuno, e di conseguenza, non riuscendo a instaurare dei rapporti sociali, non riuscivamo nemmeno a sentirci a casa in quel posto lì, che era il posto della vacanza, quindi il posto in cui avremmo dovuto essere comodi e sentirci in qualche modo a casa nostra. Ho nettissimo quella sensazione di svegliarmi la mattina e di sentirmi fuori luogo, di sentirmi fuori posto, fino a che un giorno, credo il secondo o il terzo giorno di vacanza, un ragazzino venne da noi, disse due parole in italiano e ci incluse nel gruppo. Poi non so come andammo avanti, non mi ricordo, parlavamo un po' d'inglese, un po' in italiano, però a quel punto la barriera era rotta, non ci sentivamo più dei clandestini, non ci sentivamo più in una terra straniera. Oggi parliamo esattamente di quella sensazione lì. Buongiorno a tutti, sono le 16:09 in punto, siamo in diretta da Milano, questa è Voi Siete Qui, io sono Matteo Caccia e il programma è sempre Radio 24. Raccontiamo storie ogni giorno alle 16, è mezz'ora incastonata nel palinsesto di Radio 24 in cui raccontiamo una storia diversa ogni giorno, la vostra storia, la storia che voi avete voglia di condividere con noi e che inviate tutti i giorni a Voi Siete Qui @radio24.it. Da quella storia noi prendiamo l'argomento e cerchiamo di allargarlo. 349-238-6666 è il numero per mandare sms in diretta, altrimenti se avete un profilo Facebook il nostro è Voi Siete Qui Radio 24, se avete un profilo Twitter invece Voi Siete Qui R24, il mio invece è semplicemente Matteo Caccia. Avevate quanto? 15 anni? Ne avevate 6? Ne avevate 49? Eppure in quel contesto, in quella situazione, con quelle persone, facendo quel lavoro, in quel luogo, vi siete sentiti in qualche modo dei clandestini. Voi siete qui Radio 24, voi siete qui R24, oppure di nuovo 349-238-6666. La storia di oggi è una storia che non sappiamo bene da dove arrivi. Ogni tanto arrivano delle mail che hanno, sapete, i profili, gli indirizzi mail che sono inventati, quindi non c'è un nome e un cognome, e quindi noi abbiamo capito di cosa si trattava. Poi la persona che abbiamo contattato, Stefano si chiama l'autore della storia, grazie Tiziano, ha preferito non intervenire, però ci ha regalato questa storia. È la storia che parla di un oggetto, parla di una scarpa abbandonata, ed è vero che le scarpe abbandonate sono diverse dagli oggetti, da altri oggetti abbandonati, perché sono molto intimi, o semplicemente più che intimi sono proprio un oggetto senza il quale è difficile muovere e quindi è difficile fare le cose. Quindi quando vedi una scarpa che è abbandonata o perduta, come dice lui, quell'oggetto ti fa immaginare la storia di quella persona, te la fa immaginare ancora di più se si trova in un luogo che da qualche anno a questa parte è un luogo deputato per il passaggio delle persone, ed è nella fattispecie l'isola di Lampedusa. Oggi parliamo di quella, parliamo di quell'oggetto, parliamo di quell'isola e parliamo delle persone che ci passano da quell'isola, che ci piaccia oppure no. Noi facciamo appunto un programma in cui raccontiamo storie, non diamo giudizi, non facciamo informazione, e quindi vi prego, comunque la pensiate, di sospendere il giudizio sul fatto che questo paese sia aperto alla arrivo di altre persone o debba rimanere chiuso. Provate a farlo dalle 16 alle 16:30, poi tornate ad arrabbiarvi, a smadonnare, a dire quello che volete, però cercate solo di ascoltare la storia che stiamo per raccontare. È la storia di Stefano, 349-238-6666. Vi ricordo, immaginate questo posto, se ci siete stati lo conoscete, se non ci siete stati l'avete vista. Lampedusa è una delle isole più belle che ci siano nel Mediterraneo, è un'isola bianchissima, tutta in tufo, è stretta e lunga, è disposta proprio per scusate, nel senso che è orizzontale, no? Quando la vedi, più o meno è più vicino all'Africa che all'Italia. Appartiene, credo, proprio da un punto di vista del, come si chiamano, del, della conformazione della terra, appartiene proprio alla, all'Africa più che all'Italia, no? Da un punto di vista dei confini, ma del, vabbè, non mi verrà, geologico credo appartenga all'Africa, è però ovviamente territorio italiano, ed è un'isola che di recente è stata conosciuta soprattutto per via di quelle immagini che arrivavano dai telegiornali di tutte le reti televisive. Ecco, sospendete un attimo quella memoria e cercate di concentrarvi su una storia molto semplice, la storia di una scarpa. Una scarpa è una scarpa. È un uomo, è un uomo. Ma una scarpa è solo una scarpa finché non si perde. Quando si perde non è più solo una scarpa, diventa una storia. E la storia, ovviamente, è la storia di un uomo. La storia di un uomo che ha perso quella scarpa. Se avete mai visto una scarpa perduta, immagino sappiate di che cosa sto parlando. È così evidente, guardando una scarpa perduta, che quella non è solo una scarpa, ma è la storia di un uomo che ha perso quella scarpa. E attenzione, perché non parlo di una scarpa abbandonata e nemmeno di una dimenticata. Quelle sono altre scarpe spaiate, sono altre storie. Storie di abbandoni, storie di addì. Invece queste storie, storie di scarpe perdute appunto, sono storie di uomini perduti, in mare per lo più. Questo che faccio è un breve elenco delle cose che si smarriscono in mare. Scarpe, scatole di latta, lattine, bottiglie di plastica, fotografie, monete, bibbie e corani. Preghiere, quindi. E una preghiera è una preghiera, una scarpa è una scarpa, appunto è un uomo, finché l'uomo che ha in mano il Corano o la Bibbia e prega, non finisce per perdere una scarpa. Quando un uomo che ha in mano un Corano o una Bibbia e prega perde una scarpa in mare, insieme alla scarpa e al Corano o alla Bibbia, in qualche modo perde tutte le sue preghiere. Le prime preghiere che si perdono in mare sono le preghiere della speranza, quelle che chiedono qualche cosa di buono, qualche cosa di meglio per sé, per la propria famiglia. Poi si perdono le preghiere della paura, quelle che nascono di notte, in mezzo al mare. Quando si capisce che la barca non reggerà quel mare e la gente ammassata accanto a te diventa come folle, è selvaggia, è cattiva e ha la tua stessa paura e piange, prega, grida e maledice, bestemmia e cade in mare e si perde nel buio. Per ultime si perdono le preghiere dell'addio. The other day I looked at myself in the mirror. Io non lo so bene da dove arrivi questo racconto. Non so se si riferisce a un luogo particolare o a una storia particolare. È una storia strana, che non è una storia in realtà, perché il protagonista è assente e al suo posto ci sono gli oggetti che gli sono appartenuti e che sono stati persi in mare o trasportati dal mare. Ecco perché, anche se non sappiamo dove si svolge e chi è il protagonista di questa storia, che però conosciamo bene, noi la sappiamo già, l'abbiamo già sentita, la sentiamo spessissimo. È la storia di persone che cercano una vita migliore da questa parte del Mediterraneo. E pur di raggiungerla sono disposti a rischiare tutto, molto più di una scarpa. E che ci piaccia oppure no, questa storia ci appartiene. Perché noi stessi ne siamo parte, anche inconsapevolmente. Noi che stiamo in questo paese che quasi unisce i due continenti siamo parte di una storia, di una narrazione che è più grande di noi, che inizia prima e che probabilmente finirà dopo di noi. La storia per cui qui si sta meglio che a sud del Mediterraneo. La storia per cui qui si può diventare ricchi e là no. La storia per cui se nasci di qui sei più fortunato che se nasci di là. Può non piacerci questa storia, possiamo rimuoverla, possiamo non volerla sentire, possiamo osteggiarla oppure raccontarla a tutti quanti, ma questa storia è comunque più potente di noi. Questa cosa l'ho capita la prima volta che sono stato a Lampedusa, l'isola che, come dicevamo prima, oggi è famosa perché è il primo approdo per chi arriva da sud e non perché è un posto splendido e bianchissimo. Quei pochi giorni che passai a Lampedusa, arrivandoci anche io dal mare, ma per rotte diverse da quelle più frequentate, scoprii un luogo pazzesco, quasi tenuto nascosto. Quel luogo, a Lampedusa, è il cimitero delle barche. E questa che sto per raccontarvi è una pagina del mio diario di quei giorni. Non avevo intenzione di fermarmi troppo qui a Lampedusa, ma le previsioni danno mare grosso e vento forte, quindi rinforzo gli ormeggi e aspetto. Ho noleggiato un motorino, giro per le strade di quest'isola che è una striscia di terra lunga e stretta che va da destra a sinistra o da est a ovest. La parte nord è una scogliera alta e inaccessibile. L'isola è talmente stretta che sono pochissimi i punti da cui non si vede il mare. Uno dei pochi, uno di questi, si trova proprio nel centro, in una piccola valle. È il cimitero delle barche. Ci arrivo attirato da una macchia di colore che da lontano sembra un bosco azzurro, e invece sono barche, pescherecci, a decine, accatastate e sfondate. Immagino siano state ammucchiate con una gru o qualche argano gigantesco, ma a guardarle sembra che delle braccia giganti le abbiano prese e poi, dopo averle fatte dondolare proprio uno, due e tre, le abbiano buttate lì, dentro quel recinto. Alcune sono intere, altre hanno buchi enormi, altre ancora sono capovolte. Ecco, queste ultime sono quelle che mi fanno maggiore impressione, perché tutti gli oggetti, grandi e piccoli, sono disegnati e costruiti per stare in una determinata posizione. Quando capita di vedere quello stesso oggetto in una posizione che non è la sua solita, è un po' come se fosse nudo. Ad esempio, dopo un incidente in cui un'auto si è accappottata, è come se quella posizione, a testa in giù, con le ruote che girano nell'aria, svelasse tutta la sua fragilità. Ecco, queste barche mi fanno, lo so che è strano dirlo, però mi fanno un po' tenerezza. È che dovrebbero stare in mare, invece sono malamente buttate su una colata di cemento. Quelle sottosopra poi sembrano quasi imbarazzate. Una in particolare è tutta azzurra, con lo scafo rosso rivolto verso il cielo. Mostra la sua zona più intima, quella che è di solito immersa nell'acqua, quella che fa gran parte del lavoro. Mi verrebbe di coprirla o almeno di girarla per metterla in una posizione più dignitosa. Ecco, il vento ora si è rinfrescato e mi fa venire i brividi. Accendo il motorino e torno verso il porto. Sensazione di sentirsi in qualche modo dei clandestini ovunque vi sia capitata. Flaminia al 349 238 6666 scrive: in viaggio di nozze eravamo gli unici italiani del villaggio. Nell'occasione mi sembrava molto romantico. Beh, Flaminia, immagino che in qualche modo lo fosse molto romantico il fatto di sentirsi dei clandestini in un villaggio turistico, immagino per niente abitato da italiani. 349 238 6666. Oggi però raccontiamo una storia ben precisa che racconta una storia che conosciamo di meno, nel senso che noi conosciamo moltissimo per immagini, per quanto ci viene raccontato dai TG, dai giornali, eccetera eccetera, le storie delle persone che cercano di arrivare in questo paese e che spesso passano da Lampedusa. È diventato una sorta di set quello, dove ogni tanto arrivano delle truppe, si piazzano lì, vediamo cosa succede quando arrivano 200-300 persone che magari hanno fatto naufragio e passano di qua. È un po' meno conosciuta invece la storia di chi questi viaggi non solo li incentiva, ma di chi da questi viaggi ci ricava dei soldi, tanti soldi. È come se fosse la parte sommersa dell'iceberg che non vediamo, che tiene a galla tutto. Visto che noi ovviamente di questo argomento ne conosciamo pochissimo, come spesso ci capita fare, lo chiediamo a qualcuno che ne sa di più. E in questo caso qualcuno che ne sa di più è l'autore, insieme al nostro Giampaolo Musumeci, che ovviamente è in giro a qualche parte nel mondo, credo sia in Congo in questo momento. Lui è l'autore, insieme a Giampaolo, di questo libro che si intitola Confessione di un trafficante di uomini, edito da Chiare Lettere, e lui è Andrea Di Nicola, che è professore di criminologia all'Università di Torino. Pronto Andrea, buongiorno. Buongiorno Matteo. Come stai? Bene. Dove ti trovi in questo momento, Andrea? all'UNICRI, alle Nazioni Unite a Torino, a parlare di criminalità organizzata. Perché di fatto tu, diciamo, le due anime di questo libro sono: una è quella di Giampaolo, che conosciamo bene, che si mette appunto gli scarponi e parte e va a vedere le cose dove succedono. Tu sei la parte, con tutto il rispetto, Andrea, sei la parte più accademica dei due, correggimi se sbaglio, sei quello che, diciamo, analizza di più i dati. Ma ci siamo messi insieme proprio perché avevamo due approcci, noi volevamo capire quello che sta dietro a quegli oggetti, no? Si vedono gli oggetti, si vede l'ultimo anello, ma dietro c'è un'organizzazione. Per farlo servono persone come Giampaolo, abituate ad essere sul posto, sulla notizia, e persone abituate ad analizzare. È venuto fuori Giampaolo lo chiama un reportage, un'inchiesta, io lo chiamo una ricerca e qualcuno lo chiama un libro di narrazione, un fondo un po' tutte queste cose per fare vedere l'aspetto invisibile e l'organizzazione criminale dietro all'ultimo anello, che sono gli sbarchi e che sono i clandestini che pagano un sacco di soldi. Ecco, infatti, prima. Andrea, guarda, proprio partirei da qualche dato che personalmente mi ha abbastanza sconvolto, e voi lo citate proprio in apertura di Confessioni di un trafficante di uomini, che sono proprio, esiste un tariffario vero e proprio che voi avete recuperato mettendo insieme diversi dati, e voglio dare qualche numero, per cui le tariffe dei trafficanti in dollari americani per andare dall'Afghanistan al Regno Unito sono $25,000, dall'Afghanistan all'Iran sono 700, dall'Asia all'Europa tra i 3 e i 10,000, dal Brasile agli Stati Uniti tra i 13 e i 17,000, dall'Iraq al Regno Unito 10,000, dall'Iraq alla Germania 14,000, e poi vabbè, dal Messico agli Stati Uniti, che è una frontiera che noi conosciamo poco ma che in realtà è molto raccontata da un certo tipo di cinematografia, soprattutto americana, dal Messico agli Stati Uniti da 1 a 4,000, dal Nord Africa all'Italia dai 1,500 ai 3,000, che sono più o meno è più o meno la tratta che conosciamo di più. Tu mi raccontavi una volta, in cui ne abbiamo già parlato, di questo trafficante di uomini che avete incontrato, che ti ha detto: Mosè è stato il primo scafista della storia, io sono come Mosè. Beh, un po' ci ha fatto capire che è qualcosa di inarrestabile, lui e Mosè, perché Mosè è stato il primo, era lontano, e qui stiamo parlando di un bisogno, e su questo bisogno ci fanno i soldi dei criminali che sono organizzati, che sono imprenditori, che non sono disperati come ce li immaginiamo noi, che non sono quegli ultimi, quegli scafisti che noi vediamo che poi finiscono in galera. Noi, io e Giampaolo, siamo andati in giro per l'Europa, per l'Africa, a parlare con alcuni, con diversi trafficanti, e loro sono imprenditori, e queste persone, come dicevi, guadagnano un sacco di soldi, alcuni di questi 6-7 milioni di euro da soli, immaginatevi, per migliaia e migliaia di persone. Ma queste persone, Andrea, sono persone che fanno questo di mestiere, o fanno dei mestieri di appoggio, dei mestieri che, come dire, riciclano il denaro? Alcuni di questi hanno dei mestieri, potremmo chiamarli paravento, hanno dei bazar, gestiscono ristoranti, spesso è quel paravento che permette di far girare molto denaro, e poi però il loro vero lavoro è quello criminale. Immaginatevela come una rete di attori sparsi nel mondo che collaborano, che fanno business da soli, è fluida, si muove velocemente, e trafficati, diciamo noi, i clienti, dicono loro, perché sono businessmen, almeno così si dipingono, i clienti passano di mano in mano, i soldi passano di mano in mano, è una montagna di soldi cash che inquina l'economia, che viene drenata dai paesi poveri. Si parla di tra i 3 e i 10 miliardi di dollari all'anno. Sono stime delle Nazioni Unite. Andrea, un'altra cosa, dicevate che loro stessi spesso disincentivano, dicono alle persone che vogliono venire in Italia: guardate che non è il caso di andare adesso, non è così ricco, non stanno così bene come sembra, e questa cosa non aiuta, non serve a nulla. No, non aiuta. Kabir, in Italia, un mediatore, perché lui si voleva far chiamare da noi mediatore, ci ha detto: questo è un sogno, io vendo sogni, e continuano a chiedermeli, anche se dico che oggi l'Italia non è più la terra delle opportunità, perché sono onesto, io i clienti li trovo lo stesso, quasi mi obbligano. Allora, è ovvio che questi trafficanti si dipingono anche in una versione bonaria e neutralizzano la loro colpevolezza, però dietro al mediatore di turno, che è Kabir, che sfrutta il sistema dei permessi di soggiorno e fa entrare decine e decine di pakistani ogni anno, con un sistema quasi legale, dietro a questo c'è un mondo di domanda. Kabir ci ha detto, mentre eravamo con lui: figuratevi che io ho fatto venire anche figli di amici, e gli dicevo: non fateli arrivare in Italia, finiranno a raccogliere patate, finiranno a raccogliere pomodori, e nonostante questo mi hanno chiesto questo favore, io sono buono, li aiuto, io sono onesto, e adesso qui stavano meglio in Pakistan. Se volete saperne di più, il libro si chiama Confessione di un trafficante di uomini, hanno scritto scritto appunto Giampaolo Musumeci e Andrea Di Nicola, che ringrazio moltissimo. Ciao Andrea, alla prossima. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Chiudo con un messaggio che è arrivato pochissimo fa. Ciao, mi chiamo Masamba, sono senegalese, ho 30 anni, sono innamorato di una donna italiana sposata e so che lei ama pure me, ma mi sento inutile e clandestino e non posso stare vicino a lei perché non la lavoro e lei neppure, quindi se ne sta col marito e per poter vivere faccio quello che posso. Ecco la mia storia. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata, che sono Tiziano Bonini, Paolino Corleoni e Margherita Ina. Grazie soprattutto a Stefano, la stella di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Dante Fazzini, telefono da Ascoli Piceno. Il racconto di domani è intitolato Il volo e narra di un'esperienza di adolescenti un po' finita tragicamente. Questa è la mia storia e io sono qui.